Sorprese vere e proprie, come al solito no, almeno per chi si occupa di ricerca in questo settore, perché noi sappiamo bene che l'IPCC non crea ricerche nuove, ma fa un'analisi di quello che è uscito negli ultimi anni, insomma. Però devo dire l'approccio che ha questo report è particolarmente interessante, perché forse per la prima volta si mettono insieme tutte le sfere di competenza che vivono su questa terra, quindi dagli esseri inanimati, l'oceano, l'atmosfera, fino a quelli animati, gli organismi, gli ecosistemi, e fino all'uomo, e per la prima volta si capisce che veramente tutte queste tre sfere interagiscono fortemente e creano poi l'evoluzione, ma anche i problemi che abbiamo sul nostro mondo, insomma. Questo secondo tomo del rapporto è dedicato in qualche modo agli effetti della crisi climatica. Vado proprio sul pratico. Cosa deve temere un italiano? Cosa deve temere chi ci ascolta? Qual è la notizia da portare a casa? Il report si occupa di tutto il mondo, ma fa delle schede particolari sulle singole zone, per esempio l'Europa, il Mediterraneo, e qui si vede chiaramente che noi saremo molto colpiti probabilmente dalla siccità. Però l'altra faccia della medaglia è quella delle precipitazioni estreme, quindi la vulnerabilità dei nostri territori a precipitazioni di questo tipo, soprattutto nelle città, l'innalzamento del livello del mare. L'Italia ovviamente è un paese costiero, quindi quello è chiaro che ci impatterà fortemente. Ma poi ci fa capire questo report che bisogna guardare anche al di là dei propri confini, cioè gli impatti che arriveranno in Italia non saranno solo gli impatti fisici, diciamo così, dell'atmosfera, del clima, sul nostro territorio, ma in questo sistema interconnesso anche quello che succede altrove può avere impatti da noi. È chiaro che viene subito da pensare, per esempio, alle migrazioni di origine in parte climatica che ci stanno arrivando dalla fascia del Sahel. Uno dei concetti che si trovano nei commenti a questa pubblicazione, anche nei suoi, è quello dei limiti dell'adattamento. Cosa si intende? Che cosa intende? Sì, questo è molto importante, si parla di due concetti ecco un pochino nuovi, cioè limite dell'adattamento e maladattamento. Cosa vuol dire? Che l'adattamento in sé ha dei limiti, cioè se noi non riduciamo le nostre emissioni di gas serra, a un certo punto ci troveremo di fronte a dei danni tali verso i quali non potremo adattarci, ma dovremo solamente subirli. Quindi in qualche modo si dice ok, l'adattamento è importante perché noi sappiamo, non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi i danni che vediamo oggi ce li ritroveremo anche in futuro. Non bisogna però andare a danni molto più alti perché altrimenti non potremo più difenderci, insomma, no? E quindi alcuni di questi scenari futuri fanno vedere che noi potremmo arrivare ai limiti dell'adattamento, cioè se voglio dire, l'acqua del mare aumenterà di 1 metro, 1 metro e mezzo, è chiaro che il MOSE di Venezia non, come dire, non farà più nulla, insomma, no? Quindi ci sono dei limiti veri e propri che non dobbiamo superare. E ancora il maladattamento, cioè non dobbiamo fare adattamento pensando soltanto alla contingenza, cioè all'emergenza, ma dobbiamo pianificare delle misure di adattamento strutturali che guardino non soltanto al singolo fenomeno, ma a tutto quello che gli sta intorno, cioè alla complessità del sistema. In questi giorni è impossibile, qualunque notizia si stia commentando, non andare a un certo punto a ciò che viene in Ucraina. L'anno Certo. scorso, con l'ondata di target climatici ambiziosi, COP26, c'era stata la sensazione che si stesse aprendo forse una finestra di possibilità per azioni ambiziose. La pubblicazione del primo capitolo del report IPCC, del primo tomo, aveva avuto grande spazio. Questa seconda ne ha avuto molto meno, mangiato mediaticamente dalla crisi ucraina. E la sensazione è che stiano facendo anche un po' di passi indietro, un obiettivo che sembrava raggiunto, la chiusura delle centrali a carbone in Italia, ora forse verrà rimandato. Lei che sensazione ha? Si sta un po' chiudendo questa finestra di possibilità? Il tema sta passando un po' in secondo piano? Ma sicuramente in questo momento questo report non ha avuto quasi per nulla, come dire, impatto mediatico, no? E questo è un peccato perché poi c'è, anche a livello proprio concettuale, si vede la differenza di lavoro degli scienziati del clima che usano la cooperazione internazionale e così via con quello che sta avvenendo in questo momento, insomma, no? Nella guerra in Ucraina. Ma a parte questo, è chiaro che uno può reagire in maniera diversa a questo, per esempio, aumento del prezzo prezzo del gas e così via, no? Certamente si parla di riaprire le centrali a carbone, ma nello stesso tempo il GOTA delle aziende elettriche in Italia ha chiesto di autorizzare 60 gigawatt di potenza energetica in modo tale da diminuire del 20% le nostre importazioni di gas. Allora ci si può muovere su vari scenari, no? Per esempio questo 60 gigawatt sono soltanto un terzo delle autorizzazioni, delle richieste che aspettano autorizzazione dal nostro ministero, quindi effettivamente si può accelerare in un senso o nell'altro, e noi tutti sappiamo qual è il senso giusto in cui accelerare le azioni. Lei, oltre ad essere uno scienziato, a lavorare con i numeri in questa veste la stiamo intervistando, è ormai anche un divulgatore della scienza del clima, è abituato a parlare col pubblico e quindi si pone problemi che sono anche di ordine comunicativo. Si è parlato molto in occasione della pubblicazione di questo sesto report IPCC di come l'organo stesso, le Nazioni Unite, gli scienziati debbano comunicare. Qualcuno dice che dovrebbero farlo in un modo un pochino più allarmistico, dovrebbero usare un po' più le emozioni. Lei cosa ne dice? L'IPCC lo sta facendo? Dovrebbe farlo? Non è suo ruolo farlo? Ma io direi che quest'ultimo rapporto IPCC concentra soprattutto su quello che noi viviamo sulla nostra testa, no? Che arrivi direttamente sulla nostra testa o da altrove, come dicevo prima, e quindi si concentra su quello che le persone possono effettivamente intuire, vedere, soffrire, e questa è una cosa molto importante perché rende molto più concreto tutto quello di cui si parla. E poi è chiaro che come dire, il modo di fare scientifico è diverso da quello degli ambientalisti, ma tutto sommato deve essere così, insomma i nostri ruoli sono diversi, noi dobbiamo quantificare, dobbiamo far vedere quanto siamo certi di alcune cose, insomma, quindi con rigore scientifico che ci contraddistingue. Ecco, però questo fatto di riferirsi alla concretezza delle singole persone è estremamente importante, perché prima questi rapporti avevano questo cappello per i decisori politici, ma è soltanto veramente per i decisori politici. Adesso mi sembra che il Summary for Policymaker sia veramente anche più vicino alla gente comune, e questo è importante.